non è importante quello che sto dicendo, già. Importante, ma io non ne ho. Come no? Il PC come lo chiami, già? No, il PC, che devo fare un interrogativo al volo. Pullman, non è che sia verde, ma faccia bene, non c'è problema. capito? Non c'è nessun problema, si va tanto da me. Facciamo un scudo all'inizio, vediamo un po' cosa riesco a fare. E vabbè, non c'è problema, capito? Almeno. Infatti, ho pensato a me che c'è la macchina diesel. E tu fammelo sapere, dopo non ti preoccupare, dai, dopo ci arrangiamo, non ci sono problemi. Ma quanta è la cilindrata quella o... Oh, non va? 125. vicino, guarda, un affare lavoro. È un affare. Il lavoro che hanno fatto di motore è. Ha fatto un affare, poi regalata. La regalata, poi regalata. Tutto ciò di 80 euro o 70 euro. Stavo dicendo, quanto ne volevo io per quella moto? Cioè, non mi impara, non ti preoccupare con me, con me. Guarda, l'appuntamento, se la vuoi vedere io lo chiamo, se no la vuoi la vediamo. Sì, infatti devo andarci, ci devo andare, ci andiamo assieme al limite, Luca lì. Guarda, se vuoi io se la blocchiamo, non c'è problema. Guarda, segnati il mio numero, segnati, mi fa lo squillo. Aspetta un attimino che devo trovare la penna. Aspetta, aspetta un attimino. Apri il telefono, guardalo che entra nello spigo, tira tu via, non ho problemi. Aspetta un attimino che prendo la penna. Si chiamano, non è che tabelle, Vabbè, quei forati grandi, grandi, più grandi. Ho capito, ma quello lì lo usano per tutti. Quello lì tassello chimico è una resina con un altro componente che si mischia assieme e dopo 5 minuti ed è peggio del calcestruzzo. Si aggancia a lui, non lo stacchi manco per sogno. Non è attentinata, lo usano anche per il solaio, per tutto quanto. Quella che lo usava anche il suo Michele, questo padrone di casa, lo usa anche per fare coso in legno, che mette la trafila da una parte all'altra, ma metto il tassello chimico, ma non si stacca manco per sogno. Oh. Non so. E poi che lo usavamo per fare le tende, quello. Sua guglia. Quando bucavi un canello, l'unica cosa era il tassello chimico. Era un bombo, non so. Era da lì il padre superiore. Allora, un catto, cemento. Facevo comprare la bomboletta del... siamo pronti. Era Claudio, mi dà colpo di mano. Seguo qui anche Franchetto. Fate questione di una mezz'oretta. Così mi conto anche l'attacco del BL che si muove, è un casino Sant'Anna. Non è nuovo a me. E purtroppo mi è successo un guaiuli. Non vuole mai col vento mi attacci tutto e boom, è un casino. Sono arrivato a Sant'Anna. Quanto è 2 anni? Come preso? Non è un problema, già vedo anch'io. Ma intanto porto al limite anche quel coso. Si è andato nel mio gas, così se devi saldare, devi sistemare, lo sistema con quello. Mamma mia, va. Ma poi lo faccio anche il piello in quel campo, ui, ma va. Sfido chiunque a fare il piello in quel campo lì. Claudio ce lo sa fare perché ora lui ci ha preso la mano. C'è un campo lì doppia calza. Così tutto. Da commentare dentro, ui. Che va, finita la gara. Se lo fanno, lo farà lui, non c'è problema, porto quello lì, quello del saldatore mio, quella gas, se te lo dovessi rifare nuovo, te lo rifai nuovo, come fai? Sì, vabbè, quello sì, perché sono andato a portare sulla la prolunga, un saldatore mio. Un secondo di bianco, perché? È positivo. Positivo, tutto noia. Cappa, io curami. Tra poco al baracchino, adesso lo carico e andando anch'io che domani mi devo fare presto. Ci ho lasciato la moto in cantiere e dovrei viaggiare in treno domani mattina. Cappa di Rogero. Hai lavorato stamattina tu? Stamattina sì, ma dopo pranzo stava piovendo e ce ne siamo andati. Sì, ho capito. Sì, perché anche domani non ha messo bello, anche domani. Va bene. Se avete acqua ci andiamo in cassa integrazione. No, ha messo fino alle 4:15, non vi sparse. Ciao. E dopo più già. Ehi. Ciao Pupetta. Ah, beh, se piove muori. Se siamo in casa. E la pioggia bucio 17. Cappa. C'è il computer che guardi il meteo.it, io mi guardo sempre quello, bene o male, è sempre giusto. Ma non è il computer e non lo posso guardare. Ma comunque, se mi stai confermando che così già va bene. Ah, vabbè, io mi guardo sempre questo, non devo guardare le previsioni, mi sto guardando il meteo.it, è bene o male, così è sempre giusto. Io. E andare voi. Va bene, io ti lascio male che vado a caricare e magari ho rientro dopo o tutta domani. Cappa. E ok, casomai ci sentiamo domani mattina là, quando andrò a lavorare e ti faccio una chiamata, va. Cappa 5, già lo sai, a 5 la mattina. E ok, via. Va bene, ciao amore, saluto a te e quella familiare, dai. Tutto a casa, ciao buonanotte. Ciao buonanotte. E per Luca? Maria, ti saluta da Luca, Mauro. Sì. io chi ci aspetto che rientra, e anche io lo fa mangiare, dopo mi scordate il culo. La faccia di nuovo, ciao ciao, domani. Ciao. Quando ti vado domani? Ciao, domani, a domani, dai. Comunque, dopo la moto già ci andiamo a vedere, vai. Oh, ma poi vedi tu a Svalti, vedi tu, certo, da un amico tanto questo qua. Ti fai già adesso che vuoi subito uno sopra l'altro, sono te ne là. Io valuto, poi ci si dà il soldi uno sopra l'altro. Prima vado a valutarla, poi vediamo. Sì, no, ho fatto il capire, non è il tipo che è stato qua perché praticamente gli ha dato, ha avuto un mezzo problemino, ma lo conosce anche. Magari poi vediamo un po' cosa riusciamo a fare, non c'è problema, al limite metto un cimetro a parola pure io, vai. Signora Luca, non c'è problema, dai. Va bene, io ti lascio Luca che vado a caricare. A più dopo, se coincide, siamo tutta domani. Ciao Luca. Passo qua, io vado con tutto, non lo so. Passo qua, a dopo, buona cena. Ciao, grazie, ciao ciao. Questo buono, non l'ho ancora mangiato. No, è entrata adesso mia moglie. Adesso aspetto che prepara, dopo mangio e mi guardo un pezzo di film e mi tengo. Ci vuole un po' di riposo, Ah, comunque stavo guardando le previsioni per domenica, ha messo il coperto. Perché se non lo faccio adesso non lo faccio. Ehi, stavo dicendo, guardate le previsioni, ho visto coperto, ma lì non ce ne frega niente. Ma diciamo che è un punto un po' maledetto dove l'antenna. Perché se c'è le pegole, non è come sono come le tue, dove sei tu adesso, che sono sistemate, ferme. E lì è un passo nuovo, ho capito. Sono vecchie. Ah, ho capito, via. E vabbè, ci sale chi. Insomma, tu e Claudio, se ne intanto conosci il tetto, conosci tutto. Ci sarete voi, non c'è problema, al limite un po' per abbassare l'antenna, non se la dovete mettere in terra, per sistemare quella roba lì, ci dà una mano in qualsiasi lì, capito, non c'è problema. Ma poi bisogna fare la cura al palo, ma dove portava Claudio i buloni, per portare il palo. Sono te scopico, tipo il tuo, mi fa il tuo. Sono tu l'ho usato, ti è rimasto lì bloccato. Come ci sono le cellule dei bulloni. Invece da me, siccome dicesse, non so, l'ho proprio spezzato dentro, hanno passato il trappano e il buco è diventato più largo. Ma sono passato il mio maschio per rifare la fleppatura e lo mettono più grande. Adesso poi vediamo cosa dice Claudio. Ma io se torno da me gli avrei fatto quel lavoro lì che te l'ho detto, un tassello chimico. Se si è fatto più grande per non stare lì a smontare a fare, io avrei buttato dentro il tassello chimico e dopo ti aggiustavo il PL e non stavi lì a smontare a fare. No, ma non è così. Si sono un po' arrugginite, gli faccio la spatola, gli butto lì vernice con zinco. E poi quella apposta, no, io parlo del palo, il palo, cioè metto lo scupico, fai boca non è che ciò faccio io il bullone, io. Vedete voi cosa dovete fare, dai. Adesso vediamo un po', sperando non ci sia problemi. Vabbè, quello sì. Infatti come non è domenica mattina, senza farlo troppo tardi, così almeno per male riesce a sistemare la nostra lì a reggere su un altro giorno. Vabbè, infatti, poi tu ne vuoi via. Così. Fatto, non ci pensiamo più, perché altrimenti poi inizia a piovere, non è salire. Non fa più. Quindi tu magari, nel punto di guarda messa, hai più probabilità di salire, perché a parte il tetto è più nuovo. Le tavole sono ferme e ci può camminare tranquillamente. Ovviamente la persona leggera, tipo io, se così cammina franchetto, ma rischia di spaccarle. Anche visto che vedo che sei come si dice, il camminare sopra rischi di fare anche meno danno. Adesso vediamo, no? Ma a me di questo, tanto con Mauro, perché guarda, attaccando il tirante dall'angolino, lungo, lungo, lungo, poi attaccare là, tu e lui, quasi mai due. Allora, ok, ma il tacacca dell'altalo, allora sì. Eh beh, quello dove, intanto lo vedete voi come ci stavate. Ma tu è un gioco, magari, forse mio vuol dire, tu è un gioco. Vabbè, quello gliela faccio, infatti dopo ci sono salito io con Torino, perché io sul tetto non ci sono mai salito, ci sono salito l'altro giorno con Torino a Settevalla e ho visto che era abbastanza tranquillo, già era abbastanza facile arrivarci. No, vabbè, a parte che sta Roma leggera, dai, la mia ha preso 3-4 volte di quella, cioè la pelle è leggera, ma il palo che è pesante, poi mi sono una buona cazzata, chi va Claudio? C'è un vento, mamma mia. Beh, quando lo fai col vento te la sbraccia e dopo il tubo, dopo ci devi salire dalla terra con la biccio. Infatti quello è il casino. Però fatti caso la biccio, quando mi ha portato l'antenna, te la fai, ma la piazza, ma la butti sul po' di gobbo, vai in svolta. E la stavo provando io qua, no? A infilare il pezzo dalla base, dove c'è il, diciamo, la resina, poi non entrava al palo, infatti ho toccato, non entrava al palo, allora cosa ho fatto? Non ho capito nulla, ho preso spruzzato un pulizio RC, ma tu quanto sei macco? Beh, la sala l'ho dovuta rimare la resina, e solo non entrava nel primo pezzo del palo, cioè nell'antenna, nel pezzo più grosso, però male, no, era pubblico da un tassi, ma qua, se mette una nuva. E farla con calma, farla bene, così almeno dopo lo tenere lì lo stesso saremo 500 volte. Infatti, mi sa che dire che facciamo un'altra, mi Mauro? Che? Da te! Da te? Facciamo un'altra! E che altra? Piccolina, eh! Ah, piccolina! No, non così vedi! Eh boh, vediamo, dai! Beh. Tanto vediamo un po', ci organizziamo! Così abbiamo una seconda frequenza. E io fila. Va bene. E io? Sono a posto. E infatti, sì. Io mi sto aspettando che sciughi quest'angolo, così almeno domani gli do un'altra passatina con lo tutto. Lo rifinisco e così prendo, lo tingo ed è a posto. Beh, a proposito, la casa è già sistemata. Sistemata, ma troppo alto sono di là, vero? Aspetta, dai, abbasso un po', mannaggia, ce la metto al centro, ragazzi, no. Mannaggia, no, non ho fatto niente, sto aspettando, c'è Michele, già era cazzato niente, perché in facciata non ho fatto nulla, no, io domenica, ma vabbè, sono venuto domenica di passare il cavo del telefono, l'ho fatto, e adesso dentro, nell'angolo, gli ho fatto un'altra accetta, l'ho messo dentro, dopo lo passano il battiscopo e ho finito. Ah, ecco, via. Che ho fatto? Si sente adesso? Ah, fa il roccio, già si sente. Boh, c'è una pomola, uno spinotto. Ma aperto l'altro giorno, non c'è niente. Boh. Comunque bella la massata, minchia, avrei preso occhi chiusi. Già bella, però mi stava dicendo Robert che d'estate c'è un po' di caldo, un condizionatore, che sei a posto? Lo so, figlia. Niente, così almeno mi sistemo il tutto, perché infatti dopo stavo guardando e mi è saltato lì il tavolo qua, che me l'ha fatto, non lo metto giù. E un secondo tempo vedo di buscarmi qualche divano e ci metto il divano. Ma l'apri a me capa, posso vedere adesso anche il amplificatore? No, quell'amplificatore è andato, ormai non serve più, me lo prenderò dopo e buco. Quale dopo? Vabbè, adesso vediamo. No, è partito, sicuramente ci sono saldature fatte male e dopo sicuramente si è gribato. Se c'è un nuovo, ti contatto da poco. Eh? dicendo quello nuovo che ti hai comprato da poco. Ehi, quello, mi è capitato il positivo della ventola. Non me ne sono accorto, ci ho finito il filo, come ho stretto, ci è andato sotto e gli ho bruciato i finalini. Cazzo. Ehi, vabbè, fa niente. Adesso Luigi mi stava dicendo che forse ce ne sarà qualche, ne avrà uno di usato. Adesso vediamo, domani sera ci scendo e vediamo cosa mi dice. Una puttana da buccia su questo amplificatore. Oh vabbè, 70 euro con un BM, 70 euro o 75, quanto era? 70, è il passato Claudio e allora 16 euro in meno. Ma non me ne prendo loro qualche prezzo, ma manco per sogno. Si è merda, peccato. Vabbè, comunque lo buttare. Vai per pizzi. C'è il tastino, la roba lì, la carcassa. Ma no, infatti non lo buttano. Però Claudio mi stava, Luigi mi stava dicendo che ne ha uno il figlio, un'altra marca, esce cioè, allo stesso, la stessa cosa di quello lì, e lui il figlio se lo deve mettere più grande e di quello se lo toglie, e quindi se non come va me lo prendo io. Fai così, vedi un po', peccato, va, un peccato, va, poi ti piace la persona. Vabbè, è quello più piccolo, se no adesso prendo quello, dopo quello lì al limite, eventualmente lo lascio in macchina e dopo un secondo tempo me ne prendo uno più grande per qua. Ma sono pure i bighissi, per carità, c'è la differenza da cane da qua. E glielo giuro, ma infatti io non me ne prendo, perché per prenderlo a lui, quando capita si prende giù a Cagliari, se non mi attacca a capo di baratti e guardarmi io come sono. Mi vedi un po', cioè un po', un paio, te ne prendi, e te ne prendi 10 euro in più, 20 euro in più, e te ne va tutti, se tu mai qualcuno è interessato, te glielo prendi, che merda, va. Cosa vuoi dire? Casomai qualche mattina sono stato a lavoro e non sto facendo nulla, faccio come l'altra volta, gli chiedo il permesso di uscire prima e ci scendiamo e guardiamo la roba. E al limite già ci organizziamo e scendiamo. Capito. Così almeno mi organizzo, chiedo il permesso, scendiamo alle 9:30 e così almeno ce lo guardiamo noi. Perché mi stava dicendo Luigi che è un casino entrare con i rimorchi, dove c'è quel negozio. Io volevo caffarano, un'oretta, un'ora e mezzo. Ah, di più, Cagliari e Cagliari ci vogliono dire qualcosa. Quelli erano tu anni. Erano vigori perché ci sono visti, ci c'è la guarda, quando siamo scesi noi c'era stradale, c'era coso e non fa. Quando scendi 100 metri è più che sufficiente. Che intanto rischi di farti vedere i pigliati verbali, di farti fare casino nella partita, non ne vale la pena, guarda. Poi quello sì, sono d'accordo con te, beh, ci mancherebbe, però abbiamo un cavolo, ci avete messo più o meno 2 ore. E siamo partiti 2 ore, verso le 9:30, alle 11:15 eravamo già lì. Ma veloce comunque, dai. Sei da correre, amici, siamo fermati anche 2 o 3 volte, 120, 100, 120, non di più. Direi, non che macchina la parte? Io e lui. Con che macchina, con la tua? No, con quella del cognato. Ma cappa, diesel. E la sì. Ah, cappa, ma infatti non sono guarda, te posso guardare la macchina, la macchina tua. Insomma, la prendi il culo. No, lo sai cos'è, io il giorno prima non ci ho pensato, mi ci due di gambe, infatti dopo la mattina l'ho già parlato, mi ha detto, no, dice ormai, l'ho già detto, e mi ha detto, e quindi non fa. Se no saremmo usciti con la macchina sua, con la mia, dai. Col baracchino e tutto. E infatti poi la tua consumi. Quanto è la tua? 1900? No, la mia è 1800 turbodiesel. Già consuma poco, se non superi quella velocità, se tieni 100-120 consuma poco. 1800? No, non può essere 1800. Aspetta, no, 1800 turbodiesel. Allora, 1000... Però c'è anche la benzina, che è pari di dispari. Io pensavo che era dispari, capito? Tipo, non so, 1700, no? GTD, 1900 GTD, capito? Ho quella mi ha detto Trubisi non ce l'hanno fatta a cavallo. No, già va bene, va benissimo, è un gioiellino, basta gli cambi i filtri, è coso, è una bomba, guarda. Trubisi, una sorpresa, via. Tanto me li faccio io, non è che l'ho portata da una parte, ecco, la roba lì me la cambio tutta io. Io mi compro i pezzi, mi compro l'olio e mi faccio tutto io. Sì, no, no, per quello, dico sempre una spesa, Capito. Ma ci vuole un secondo figlio. Ma io intanto il cambio lo faccio una volta all'anno, il cambio olio. Non faccio tutti questi chilometri, la fanno spesso. Quindi bene o male una volta all'anno va bene. Sì, no, hai capito. Quello dire io, un secondo figlio è sempre una macchina. Sempre una spesa. A te me la dici? Come ce la fatti da me, tutti i tatuaggi col passiamo montagna in faccia. Sa qua la pulizia che va, guarda. Intanto fa la partita. Ascolta, io ti lascio Luca, che è maggio, mi guardo un pezzo di film e metto il gocco, là, e ci sentiamo domani, ok? Ciao, la Lucia, buonanotte, a domani, ciao. Ciao, buonanotte. Vanno cazzo per ammazzarsi, una partita allucinante. Che affa, io ho avuto una Lucia. Ti vale un raio, cazzo. Questo l'hanno preso, ma ha perso, vero? Documenti, ma apriva, però non mi faceva vedere cosa c'era dentro. cioè magari con le carte però non me le faceva cliccare. È come se non avevo aperto niente, capito già. Ah, sono andato a Franco, vediamo un po', se ne può gabbiti. E vabbè, già, dopo una cosa ho parlato, non uso il computer, già tengo una linea, pago senza utilizzarmi da, cioè usufruirmi la DSL. Andava. Grazie mille di mano, a te ti governo, un'appennina, la ricarichi, cosa c'è se te la ricarichi? Così almeno non c'è sempre craccata, se no ti piglia male. E vabbè, vabbè, tanto, usuriamente. Poi si vedrà, capito già. Ma Antonio, tu batte il microfono. Il mio computer non le buchi mai meglio. Te l'ho detto io, secondo me ti conveniva fare quel passo. Quale passo? No. Ma nuovo? Va. Sì, da lui ci venivo così, lui. Cioè, proprio così, da ieri che non andava più. E appena ho toccato di partarsi. Poi dovevo disinstallare, poi mi partiva sempre l'antivirus. Ma no, devo disinstallare, non faccio niente a me che fanno il controllo, pensa giù. Se no è dato qualche virus lì, sulla carta dei documenti e mi ha crepato tutto. Cioè mi ha incasinato tutto. Non sta andando, ma quando poi l'ho formatato da poco io, capito? Si trova in cintra. Ah, io te l'ho detto quando potevi, cazzo, prenditelo, invece non mi hai ascoltato, adesso. Vabbè, aggiunta a quello. Stai dicendo la drummendi, sei drummendi. Guarda. Ciao, nell'inghi dentro, No, stavo sbadigliando. Lascia un po' con l'inghi dentro, già sei stracco, si intende, Un po' di tappo. No, sono stanco, ma non sono addormentato ancora, Sono sdraiato. Ragazza. Non ti sento strano già, ma sarà. L'altra notte mi sono addormentato col microfono premuto a lungo. Ma va. E mi stava già per telefonare, Antonio, invece poi... non so che cosa mi sono svegliato, sono passato perché volo i cuffi. Attenzione Gianni. Chi chiama? Va. Ciao Gianni, Leoncino sono. Ciao Leoncino, dove sei? È qua da mio fratello, via Torino. Ma quella questione, niente, non c'è punto di Mario. Di Mario chi? La risposta di ieri, di... che faceva la ciappelle, no? Di Giuseppe Tornado? Capra. Non mi ha detto niente, magari rientra, non lo so. È entrato poco fa, 5 minuti, ma non mi ha detto nulla. Positivo, adesso mi sono entrati altri due CB del procircolo. Chi so? Alessio Pomponio. Alessio, e poi? E un altro CB che non lo conosci, però era non modo la blu, hai capito? Silvestre. Silvestro? Eia. Ma di Porrotone? No, di Sassari. Chi ha detto che non lo conosco? Sì, che mi gioco più di 30 anni per questa. Adesso non lo so se te lo ricordi. Diglielo se quello che ha avuto l'incidente, che aveva la gamba appesa, sei lui. Positivo. Sto bene, è la partita come la stai guardando. Poi, la fottuta. La stanchezza che c'è addosso, Giuseppe, non è poca. Riesco a star male sdraiato a fare quattro chiacchiere piuttosto che guardare la partita. È positivo. Dai. Ci sentiamo dopo, dai. Salutone a tutti quanti gli amici della ruota, dai. Appagato Giuseppe. Bene, dai, imbriaccheggia, di là. No, negativo, no, io non bevo, lo sai. Con un aso. poi con la messa pompone, ui. Ti posso dire che abita anche via Gasci, e non vuoi sapere quella persona là, se è quella lì di qui. No, adesso abita Carbonati. Adesso, ma prima conosceva la moglie, conosceva lui, io pure li riconosco. Sì, vabbè, no, ma diciamo che adesso dobbiamo metterci d'accordo per fare quella questione nella macchina, capito? Capo. Tu sai niente, se mi dice qualche cosa, tornato, te lo faccio sapere, non ti preoccupare, com'è tutto lui? Sì, adesso non è che tu c'hai qualche trasformatore piccolino? Tanto le no, per tutti i grossi ce l'ho la stazione. No, perché adesso devo fare un eventuale, perché c'ho il tubo del ventilatore, hai capito? Quello grande. E voglio applicarci la magnetica lì sopra e voglio vedere com'è. Paga, io se no lo metti dove sta vicino stasera sul condizionatore. Sul condizionatore adesso provo io, vediamo un po' cosa ne c'è fuori. Ma cos'è, il ventilatore o il condizionatore? Cos'è, un ventilatore o un condizionatore? No, io c'ho anche il condizionatore, però il motore, sopra il motore, hai capito Luca? Ma c'ho anche il ventilatore, ma io volevo appoggiare la coda della magnetica sopra questo tubo del ventilatore, capito? È una farmassa così, perché c'è la vernice sopra. Poi se ti conviene di più magari attaccarlo al condizionatore. Adesso il motore lo attacco sopra, vediamo un po' se riesco a buscarmi questo alimentatore, vediamo un po'. Ma costa 2 cifre alimentatore, costa 2 soldi, capito? Adesso vediamo se me lo presta coso Gianni Chigri, vediamo un po'. Vedi un po', mi sono profi. Uno la trampa e non sono di 6 cifre. No, non è stata qualcuno me l'ha restituito, ma tu chiami la... Il segmentatore non veniso più. È l'unico che era rimasto, sulla faccia della terra. A qualcuno l'ho prestato, però non mi ricordo a chi. Sì, capa. Le prendetevela tutta là, io. Questo ecco per me, dai. Ciao, ciao. Ciao. Guarda tu. Guarda tu. Ciao, Giuseppe. Mi avete chiamato? Stavo guardando questa cosa qua, stavo guardando. Praticamente ha recupero dei lacrimogeni in campo, doveva far parte dell'Italia. Cioè, sono stupati perché, insomma, non è che ci può stare lì a lottare con questa gente qua. Cioè, sono stupati, sto spingendo i piedi, fra un poco e si innandano, secondo cosa decidono. Non si può giocare con tutto, ci sono altre fatte, c'è un casino. Capita. Anche le mutti dentro il motturino, il cavalacchino, via. Ma perché non mi sente? Ah, ecco, un cavallo inserito. Sì, io ti sento, no. Perché c'ha il filtro non inserito, capito? E allora sentivo il motturino. Cioè, ti ascolto, forte il chiasso qua. Oh, via. Che palle, ragazzi. Vabbè. Gianni, io viscettati. Io sono viscettato. Il 140, il 140 piglia colpi. C'è una cosa che conosce la lui o piglia ma colpi. Non è selettivo come il 440. No, questo mi porto più grande, non ti trovo più a te. Ma c'è un maggio, ti sento. Già le prendi? Le prende come? L'ho avuto anch'io il 140, lo so. Ne prende di meno, ma li prende. Che stai dicendo? Se mi sposto di due canali non ti sento più. Un canale sì, normale, perché siamo troppo vicini di banda, di frequenza. Però se mi sposto di due non ti sento più. Sì, ma è meglio. Vabbè, ma poggio strade si può regolare. Quello non è un problema, però normalmente riprende un po' di colpi. Mentre il 440 è più selettivo. Vedi, dicendo appena, diciamo 21 ci sta appena, si sente proprio lo sbatter. Poi c'è il 23, oh manco ribello. E ci sta con malacchio, ti sento già, tutti i canali ti sento a te. Vabbè, siamo vicini. Anche io a Franco, per dire, quando modula mi splatterà tutti i canali. Ma questo qua lo usiamo la base sempre. Cazzo della bomba, guarda che roba stupenda, veramente bella. Sempre quella lì, non è mai stata aperta, anzi Ballami una volta l'ha aperta Vittorio perché era partito un finale, dai. Ma partito così parlando, si abbassava di segnale, Vittorio mi diceva, ma si sta abbassando di segnale, io controllavo, e alla fine ho visto che non stavo scendendo, ho portato a Vittorio e dopo un po' di tempo l'ha fatto. Diciamo che ci ha messo un po', però poi mi ha detto che è un signor baracchino, tutto ordinato dentro, non è mai stato toccato, perfetto mi ha detto. Guarda, si sente già, la radio è veramente bella, pulita, chiara, la va bene, va più che bene, no, non c'è niente da dire proprio, poi segnale, bello, ma va bene la radio, poi ultima. Ma il coso non ce l'hai più, il magnum? Sì, io ce l'ho. Ma ce l'hai sempre? Le serope no. E le serope? Le ho comprato con lo superiore. Ah, lo stai usando? Sì, qualche volta lo uso. Il 980, caro mio, quello superiore, quello che costa la bolletta di 560 euro. Ma 570 euro devo averti preso un bel 440, cosa ne dici? Ma non ne voglio io di quelli lì, perché ho avuto già molte esperienze, ecco, l'articolo, questo, quell'altro, bigliettini, insomma, ha rotto un po' le palle qua, non voglio creare problemi, invece con questo non me l'ho mai detto nulla. Vabbè, no, guarda, io ti posso dire una cosa, praticamente con questo qua sono rinato, questo lo posso dire perché non prende colpi, ma ne manca a balla. Se io mi metto nel 22, no, e ti attivo non ti sento più, manco, io ci faccio la pena così, un attimo aperto, figurati se ti attenuo non ti sento più, no, proprio veramente, mi trovo bene, questo lo devo dire, va alla grande, dopo anch'io ti sento, devo attenuarti un po', la verità ti sento sotto fondo, in tutti i canali, e malacchino è quello che c'avevi tu prima, questo qua che c'ho io, si chiama Fagliette, la Fagliette, ah no. Non sento nessuno, cioè se sei lontano non ti sento, ma se dovresti essere vicino, anche se io ti sento, se tu arrivi con questo segnale qua per dire, se io sento quella persona là e tu arrivi con questo segnale qua, io sento a te, cioè non mi dai disturbo, hai capito? Sì, vabbè, diciamo che la ricezione magari tu sei un po', diciamo, un po' scarsino, ecco, nel ricevere. Comunque, anche quelle radio lì sono belle, belle filtrate, ecco, sono, non intendo colpi. Tra l'altro già c'avevo quella guarda Roberto, no? Che poi l'avevi vista anche tu, quella da vetrina, una radio un po' vecchiotta, di età. Mamma mia, guarda, esci di Gabbo. Gabbo, vabbè, Lucrezia. Per queste radio qua, anche se li prendono, se tu hai un segnale buono, non è come le altre radio, sia questo che il DSX nuovo che è uscito. Cioè, prima di tutto non tende nessuno se non ti avvicini proprio, ma deve essere vicino o meno. non ne senti nessuno, ma se dovessi sentire qualcuno, come funziona praticamente? Si trova un segnale buono, io non mi dai fastidio, hai capito? Cioè, per esempio, tu, io sento a te bene, hai capito? Cioè, è diverso dalle altre radio. E Gianni te lo può confermare che c'è il 2SX che ha lo stesso sistema più o meno di questo, è tutto un altro mondo, infatti io consiglio, chi decide di prendere la 48, consiglio il 2SX, consiglio, perché va molto bene, è come questo qua, cioè no, non hai fastidi. Praticamente non prendi i battimenti zero. Sì, ho capito, lo vuoi dire. Ci sente la vento, va? Un esempio, era la Buttibuzzi all'inferno della casa di Giovanni a Figaro, lui stava modulando, con Massimiliano che era sulla 131. E praticamente a Massimiliano gli splatterava tutti i canali, a me non mi faceva nulla, e io stavo passando sulla Buttibuzzi. E meno male caspita che li hanno fatti così, era ora. La cosa che c'è la 48 non se ne poteva più, e tu lo sai benissimo, ce l'hai avuto, mi sa, o no? Tutti qua ne ho avuto, e due li ho venduti. Troppi splatter prendono, sai, sono dei belli apparecchi nel 48, ma prendono troppi splatter. Luca, questo qui è il 980, ti piace? Chiedo se vi punite proprio, fa intendere anche se qui farò sotto gara, che ci rilango non si intende più. Ma chi lo è? Cosa è? L'Intec? Non me lo ricordo già. Ne manco io, comunque è il nuovo tipo di Intec. Però lì una volta siamo passati sotto Roberto Quadrato e stava modulando. E come siamo passati sotto Casaccio l'abbiamo sentito, è andato appena più avanti, al semaforo, non si sentiva più. Quel malattia che c'era a Carino? Via. Un piccolino li usa in macchina. Se quindi va a Carino? Beh, stazione non è a casa della moglie. Via, mandate. C'era in campagna la stazione. Adesso quando va via quello che c'era che è in affitto, loro se ne vanno lì e lui se la trasferisce nella casa dell'altra casa, alla stazione. Minchia, si deve mettere i pali alti, No, praticamente la casa è sempre dove c'è l'altra, no? Solo che è la parte opposta. È tratta, È quella. Già. Non è quella l'entrata alla casa. Ma le antenne le lascia lì, basta che metta il filo più lungo, cosa entra l'antenne e poi lasciarle lì. Se mi dici che hai picchi, le antenne le lascia lì, allora vabbè, si va con l'onte. Adesso devo vedere cosa fare, se ci mette il traliccio, ma fa anche intenzione di mettere un traliccio. Ma che altro amici c'è l'antenne, non l'ha accettata. Quante volte l'ho mandata? Anche stasera, anche con concetto. Ma fammi ci sarò, se me l'ha accettato, ma male di no. Prego, se sei più avuto. La chiamo la moglie col nome dell'ex fidanzata. Nonna, cos'era succede il sangue? Ma come non anch'io la partita lì, sapete, dopo i poliziotti. I caschi blu, come si chiamano? Baschi. Cioè, stasera sono stati zango anche per gli enti che ha pagato il progetto chi per sono incazzati neri. Mamma mia, oggi chi ci se ne anda ne... Se ne andano con l'ambulanza, cioè, non con l'ambulanza no, se ne andano con un pullman, fatta ambulanza se ne andano lì. Sono incavolati neri, qua succede cosa grave stasera. Che non fai la dirigenza? La dirigenza no, c'è molto nervosismo, che se ne è pagato un biglietto per vedere la partita, chi c'è? Cioè, cioè quelli lì hanno fatto un casino nero, hanno fatto, cioè hanno buttato lacrimogene e cosa, allora cosa hanno fatto? Hanno imbigliato e cose, hanno imbigliato i piedi e se ne sono andati. E qua sta succedendo un casino nero. Chi gli italiani? Cappa, cioè gli italiani, quelli i Zirbi che stavano giocando, hanno preso i piedi e sono andati. Zirbi. Stavano facendo un casino nero. E hanno fatto bene, cosa dovevano stare a prendersi la crimosa? Comunque c'è un tipo già, è tutto tatuato, è grosso, è tipo, non dico come te, ma comunque già è grosso. E c'è un passo alla montagna. Quello qua è proprio la coperta, non si vedevano solo gli occhi e basta. Adesso l'ha abbassato. E tutto viene tatuato, in più c'ha 48, lui lo voglia fare, ha disegnato un 28. È proprio scemo a farsi vedere. Ma non è italiano? Eh beh. La polizia, anche se non è italiano, non resta lo stesso. Lo so, io ho capito. Ma sono in Italia tu. Aspetta l'uscita, quando se ne sta andando lo vide. Ma sono in Italia? Non lo so dove stanno giocando. Perché si chiamano Baschi? Hanno il casco, perché si chiamano Baschi Blu? Si chiamano Baschi Blu. Sempre in cuoio. E sono altre cose quelle. C'è la Cele, c'è Baschi, sono i Baschi Blu. Ci sono le teste di cuoio, sono altre cose. Sono quelli che vanno a sfondare le porte nelle cascine per cercare... tipo questa roba della mafia, eccetera, eccetera. Non ho capito. Si stava parlando, come hanno finito, se ne sono andato. Il campo è praticamente vuoto. Le tribune sono vuote, per carità. Avvicinate, va. Che ci arriva qua. Queste due belle cannette su Rai 2. Qualcosa, va. No. Belle, in gonna. Che bagliere. Lucrezia, con questo ti arrivo più forte e più basso nell'alto. E qua ci sono più del più 30. Ma sono parecchio già. Ragazzi, questo qui è bello. Questa ha dei picchi positivi, allucinanti. Lo so, perché i vati, capitano. Io non c'è stazionale di niente. E ha scippato è quello. Lo scippato. Quindi lo musica. E poi nel libro nero bisogna scrivere. No, la una macchina, aspetta, non me ne metto più, è già detto. È logica. È logica. Non mi hai sentito? In qui. Pagata, è logica. Che scazzano di brutto. Io aspetto quando entrano i nuovi adesso. No, t'ho detto. detto io. Voi ci dire, voi si chiama la polizia quando fa, sai, si riuniscono, no? Adesso mi viene il nome. Tyson era quel pugile quello grosso che picchiava tutti, anche nella strada si bisticciava con tutti, lo arrestavano perché picchiava poliziotti di tutta cagnola. Adesso, no, comunque, questa cosa è italiana, è vero, ma adesso no, non è più neanche quello. Intec dovrebbe essere italiana, sì. Poi l'ho fatto vedere questa moto, Antone, allungata, tipo una moto da strada, poi allungata, lunga. Bisogna bottezze va via. Che taglia il gasino. Adesso quando i tifosi scoppiano dalla Giulia, perché Valentino Rossi fa la Ducati. Ah, perché era migliore la Yamaha. La Ducati ha più motore della Yamaha, li fa la tua. Aspetta tu e verrai, cosa succede? Esteticamente è come grida, mi piace più la Yamaha. Il grido del motore che c'è. Invece Ducati pron, non mi piace manco il ron. Perché io l'ho sentita la Ducati da strada, non è come ti sente tu, se che regge a volte. Magari quelle che facevano prima sì, ma quelle nuove non è più così, no. Motore iniezione, 4 cilindri, cioè, ed è pure un bel potente. Tutto io li ho viste in gara anche. Io amore, se sa quante volte sono andato. Magliona, coso è praticamente il cugino di un'amica mia, che tra l'altro è anche una mia mezza parente, con cui esco insieme, quindi ci ha invitato anche alle gare di Formula, non di Formula 1, di cose di macchine, non so che cos'è, non me lo ricordo, ma ci ha invitato, hanno fatto il pranzo, ci ha invitato anche a noi, non ci sono restato perché mi avevo fatto alcuni di questi, ma se potevo andare. No, la Ducati va, aspetto quella la corsa, è micidiale, lo stesso rombo di quelli lì, non è più nemmeno, quelle da corsa di competizione della MotoGP, sono così, sono, intendi proprio, lo zocco che devi intendere. Comunque, è una bella cosa, è anche una rappresentanza buona per l'Italia, cioè che c'è un pilota italiano con una moto italiana, è una cosa grossa, soprattutto un Valentino Rossi che la fa andare al mare, le porta al massimo, e tanto l'ultima gara ha vinto, hai visto? Cioè, ha dato una sportellata a Lorenzo. Beh, ti stavo dicendo, però tutte le visite che ha fatto, le ha fatte con la Yamaha, di quello deve essere fiero. L'ha fatto con la Yamaha, l'ha fatto prima con la Honda e poi con la Yamaha. Adesso vedi che appena che entra la Ducati vince, un sacco di gare, non sono troppo convinto. Prima deve imparare a conoscere la moto. È così, già, perché so come che altre tante chiste, le moto GP è diverso. Noi chi ci si vede nei cucino. Infatti come motore, a livello di motore di prestazione in rettilineo, la potenza migliore ce li hanno, sono l'Honda e Yamaha. L'Honda è la Ducati, le più velocità più elevate, gli altri sono così, che vanno sul mito molto. Le moto più o meno sono allo stesso livello, quasi tutte quelle da corsa sono tutte quasi allo stesso livello, però qualcuna cambia magari in tenuta, ha qualcosa più di ripresa, ma sono quasi tutte uguali. Chiaro, è come che tu mi dici, cazzo, metti il motore Ferrari col motore Mercedes, cazzo, sono i motori più potenti in assoluto della Formula 1. Certo c'è il Renault, va, però non è a livello di potenza, non è la stessa cosa, non è che già va che è quello lì, però no, non è la stessa cosa. Mi ricordo delle 5 alpine, no? Adesso non sto parlando di Formula 1, ma mi ricordo delle 5 alpine. Cioè, aveva un amico mio, l'aveva comprata a seconda mano da quello che dà l'Alfa Romeo, volete dire si dava. L'aveva comprata a seconda mano, ma era tenuta bene, strutturata, non c'era un graffio, nulla. Busato una volta mi ha fatto cagare sotto, ma l'altro camminava con la macchina. Che è un gru che cammina. C'era un po' di potenza quella macchina. Hanno sempre camminato, le macchine Alfa Romeo, anche adesso tuttora che tutta la vita quella la famiglia, quella nuova. Diciamo a quella. No, l'R5 Alpino non è l'Alfa Romeo, l'ha comprata l'Alfa Romeo a seconda mano, ma era della Renault. Era l'R5 Alpino. Alpine Turbo, la parte di dietro era tutto motore. Ah, sì, sì, è già andavano già. Prima il motore Renault era molto forte, in quei tempi lì. Poi dopo c'è un po'. Ma comunque i motori più forti sono sempre stati. Già ci sanno, anche la Renault già l'ha fatta la sua parte, nei tempi che furono. Adesso mi sta piacendo molto la Citroen C5. Mi piace molto. È una bella macchina, caspita. È veramente bella dentro, io mi sono seduto perché c'era un amico. Ed è molto bella anche come è fatta l'estetica interna, conta chilometri, tutto quanto, l'abitacolo. Quella grande stai dicendo tu? E la C5. Ce l'ha un amico mio. Che c'è anche sull'amicizia di Facebook, l'ha comprata quella volta. Dico io che la prima volta che è stata una volta in officina. Dopo un tot di chilometri ha preso il modello diesel, l'ha preso e praticamente la frizione ha dovuto rifare. E allora quello lì è un difetto della Renault, perché anche noi nell'ambulanza la frizione 3 volte l'abbiamo fatta, c'è sempre questo difetto della frizione. Chiaro. Sì, praticamente ha dovuto fare la frizione perché è una frizione che costa un montone di napuro, meno male che era pure in garanzia, perché tutte quelle frizioni particolari che stanno facendo adesso, e praticamente quando andava a schiacciare il pedale si sentiva un rumore, quel rumore strano che fa, non è? E allora preso gliel'hanno rifatta. Invece anche a me per 2 volte mi è successo che sono andato a frenare con la macchina mia, mi si è indurito il pedale e non frenavo. Pedale del freno. Quale macchina? La mia. Sua Opel. No. Cosa è successo? Boh, oggi ho controllato l'uso dei freni, ci ha pensato che ci sia intasato qualche pistoncino. Boh. Frenata rimane duro il pedale e non ti frena. E hanno detto semaforo la pedoce lì a frenare, cazzo, non l'ho vista brutta, ma ha frenato all'ultimo momento. Allora c'è qualche problema, cioè a due c'è già capo. Deve fatto la controllare. Quando l'ho portato a fare il tagliando adesso lo faccio, ma me l'ha fatto 2 volte, una volta la rotonda sempre del chilometro lì, una volta un po' più in giù al semaforo. Io le frene indietro, strano. Ho controllato anche lui, ho pensato che non ci fosse meglio dei freni, controllato in pieno. Quando fate così può essere la bomba, lo sai? Se la bomba si vede. Allora, io lavoro in così. registrato con quella macchina. E sono una quarantina di euro costerà. Cazzo, se tu andi in casa la otto, è logico che ti paga un bel di là. Sono 40-50 euro costerà, un po' di quella. Tu accorgi che sia partendo la pompa delle frene, è minoretta, cioè non è che sia chissà che cosa non sia pompa. Sì, già lo so come è fatto. Di forma allungata si attacca all'olio dove ci sono tutti quanti i tubicini che vanno giù. Chiappa, non è che sia. Può forse che sia quello il difetto. Speriamo non lo faccia più. Infatti sta andando piano piano, non si sa mai che non mi venga. Questo è il 41, c'è questo scassacarte.